secca non potevan parlare, soffocati, occhi da diavolo, da giovani a vecchi, al collo l'albatro sfulegato. Poi passò un triste tempo. Un triste tempo. Tutti muti e succhi al sangue. Una vela, una vela, una vela. Fiamme alla fine del sole posato. Veloce muoveva. Le sue ossa.